Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi ci occupiamo di un genere forse poco battuto, troppo poco battuto anche in questa trasmissione, la poesia. Ce ne dà l'occasione l'ottantesimo compleanno di un grande poeta italiano, Franco Loi, di cui esce una biografia sotto forma di intervista che ha curato Mauro Raimondi. Il libro si intitola Da bambino il cielo, autobiografia, è pubblicato da Garzanti, 382 pagine, 29,50 euro. Franco Loi, dicevo, grande poeta, grande scrittore, genovese di nascita ma milanese di adozione, che in milanese ha scritto le sue poesie. Questa biografia è particolarmente interessante per molti aspetti, soprattutto perché riflette la ricchezza delle esperienze di vita di Franco Loi, che da bambino e ragazzino è stato testimone consapevole della guerra e della resistenza, diventa poi comunista, avrà un travagliato rapporto con il PC e con la sinistra fino a lambire alcune figure che poi diventeranno dei terroristi. È un intellettuale, un poeta, un protagonista della vita culturale del Novecento. E dunque la sua è una testimonianza importante, non solo sulla poesia, sulla propria opera poetica, ma proprio su un'esperienza di vita che è stata particolarmente ricca e che offre elementi di riflessione su molti aspetti della vita, della cultura e della politica. Sentiamo alcuni spunti di questa ricchezza in queste domande che rivolgiamo a Franco Loi. Buongiorno a Franco Loi. Sì, buongiorno. Franco Loi, lei nel suo libro spiega a un certo punto come abbia deciso di accostarsi alla poesia e spiega che quando si scrive una poesia non si tratta di costruire una poesia, come dice lei, ma piuttosto di seguire un ritmo. Quindi, insomma, possiamo dire che più che scrivere ci si fa condurre dalla poesia? Sì, in un certo senso sì, per me è stato così, no? Cioè un abbandonarmi ai suoni e al ritmo. E poi non so come dire, per esempio la voce, che io non avevo pensieri, ma mi uscivano i versi. E non posso usare che questa espressione, mi uscivano i versi, perché da dentro era come se la mia voce più profonda, più interiore, mi dicesse quello che dovevo scrivere. Ecco, oggi la poesia forse è meno popolare di quanto non fosse un tempo, si legge con più difficoltà. Come mai questo distacco dalla poesia? Lei in fondo spiega nel suo libro che la poesia è libertà dall'abitudine, poi scrive anche che quando parla con dei giovani, con dei ragazzi e legge le sue poesie, questi ragazzi vengono colpiti, vengono in qualche misura conquistati dalla poesia, quindi la poesia può ancora conquistare soprattutto i giovani. Certamente, e soltanto che sa, tanto la poesia, come le ho detto che io l'ho vissuta, non è stata mai molto amata. In generale si ha un'idea della poesia così che esprime sentimenti, nostalgie, oppure intellettuale, cioè la mente che costruisce dei bei costrutti scolastici. Invece io penso che la poesia sia stata popolare nel momento in cui, fino al momento che non è scomparsa la civiltà contadina e artigianale. In realtà poi il sistema dei poteri sappiamo che non ha mai gradito molto la poesia, perché la poesia, come dice Marx in un suo scritto sull'arte, dice l'arte in generale è come il termometro del tempo e quindi fa sentire la vita e la condizione degli uomini in quel momento come è, non come si vuol far credere che sia. E quindi propone poi, d'altra parte, l'aspetto interiore dell'uomo, la necessità di prendere consapevolezza e crescere interiormente. Mentre la politica, come si sa, è fatta tutta dall'esterno, cioè si tende di dare una concezione della realtà di carattere ideologico e si pretende che gli uomini corrispondano a questa realtà. Quelli che non corrispondono vengono combattuti. Questo è successo con la teologia ed è successo con l'ideologia, come sappiamo. In questa accentuazione del carattere popolare autentico della poesia c'è la sua scelta di fare poesia in milanese. Sì, beh, anche perché quando io sono cresciuto a Milano, in un tempo in cui tutti parlavano in milanese, ricchi e poveri, per quello, capito? Non è che fosse soltanto la gente del popolo che parlava milanese, tutti lo parlavano. Quelli che tentavano, i ricchi ogni tanto tentavano di parlare italiano e facevano un po' ridere, tant'è vero che il Porta sfotte la contessa Cangiasa, che proprio cerca di parlare italiano per darsi un tono e far vedere che lei è molto ammodernizzata. Ma in realtà la gente parlava il milanese e io non è che abbia scelto poi il milanese, ma mi sono trovato proprio a doverlo dire, volendo parlare anche delle mie esperienze popolari, cioè il lavoro, la gente che ho visto fucilare, la gente che ho visto appesa, impiccata, insomma, queste esperienze vissute in mezzo alla gente mi ha fatto pensare che non potevo parlarne in italiano o far parlare loro in italiano, dovevo farli parlare della loro lingua. Lei, che è nato a Genova, a un certo punto scrive: fu in via Teodosio che divenni milanese. Ecco, che cosa comporta il diventare milanese? Beh, assumere un costume, avere un certo tipo di atteggiamento verso la vita e verso le cose. Per esempio, una delle qualità dei milanesi, che è sempre stata fondamentale secondo me, è proprio l'accoglienza. L'accogliere chi viene da fuori, chiunque sia, e farlo diventare, come dire, uno di noi, insomma, uno della città. Ecco, questo mi ha sempre colpito fin da bambino. Poi dopo, naturalmente, ci sono milanesi e milanesi, cioè ci sono poi gli individui, ognuno con le sue, diciamo, col suo carattere, col suo modo di essere e anche con la sua cultura o meno, e per cultura intendo proprio il processo di crescita dell'uomo. Voglio dire, io non credo molto nel peso, nel campanilismo, nel peso che può avere una città nella vita di un uomo. Penso che l'uomo dia un senso alla città, più che viceversa. Tant'è vero che noi poi ci ricordiamo gli scrittori, i poeti, gli uomini che hanno in qualche modo dato alla città il senso della propria fisionomia e anche il ritrovamento di un'umanità e di una società che altrimenti non avrebbe testimonianza, insomma. Ecco, quindi mi sono sentito milanese perché la città mi ha accolto, soprattutto. Ecco, questo. E poi perché io ho vissuto le esperienze forse importanti nella vita di un uomo in via Teodosio, per esempio la guerra, per esempio il dopoguerra, la ricostruzione, gli ideali di cambiamento della società, il fare, e nello stesso tempo poi i primi amori, gli incontri, gli amici. Ci sono amici della mia infanzia che vedo ancora adesso, insomma. In quegli anni di via Teodosio matura anche una sua adesione a un'ideologia. Lei poco fa ne ha parlato della fine delle ideologie, e nel suo libro scrive che queste ideologie adesso sono sostituite dal rischio di una teologia scientista. Che cosa intende con questo rischio? Sì, intendo restringere l'atteggiamento dell'uomo verso la realtà, da una parte a tutto ciò che si conosce e si intravede, si giudica attraverso la mente. E quindi pensi, e lo dico nel libro, pensi a Einstein quando dice: non si perviene alle leggi universali per via di logica, ma per intuizione. E poi più sotto, in un altro passo, dice, ma lì, e questa è una cosa che aveva detto anche Jung, ma l'intuizione non la facciamo noi, l'intuizione si fa dentro di noi. Ora, all'intuizione quindi concorrono le pulsioni esterne, ma anche le pulsioni interne, quelle dell'anima, quelle del corpo, le emozioni, come dire, il pensiero inconscio. Ecco, quindi ridurre tutto a razionalismo, e questo ci fa dimenticare, come dire, che la realtà è molto più vasta e più complessa di quello che si pensa attualmente. Così anche nel giudicare le cose. In fondo l'ideologia nasce da lì, nasce da un preteso razionalismo che conosce tutte le cose e riducibili, riducendo tutte le cose a dei concetti razionali. E con questo abbiamo capito anche a cosa serve la poesia. Grazie a Franco Loi, buona domenica. Io la ringrazio molto. Franco Loi dunque si colloca in un'illustre tradizione, quella dei poeti milanesi, uno dei maggiori esponenti dei quali nel Novecento è stato Delio Tessa, di cui esce il volume Le poesie, pubblicato da Eupli, 248 pagine, 36 euro. Tessa è uno dei protagonisti, sia pure appartato, della grande cultura milanese del Novecento. Era nato nel 1886, sarebbe morto nel 1939. Avvocato per studi, poeta per passione e autore di alcune delle più celebri raccolte di poesie italiane, tra le quali L'Eldì de Morte, la Leger del 1932. Tessa pubblicò con grande ritrosia, ma si era costruito una fama, non solo a Milano, costruita sul passaparola, con recital di poesie del Porta o e proprie, che Tessa leggeva nei salotti, ma anche nelle sale d'attesa delle case chiuse. Uno dei suoi più grandi ammiratori fu il grande Arturo Toscanini. E nelle sue poesie, osserva il curatore di questo libro, Gino Cervi, Tessa ha saputo cogliere come pochissimi altri il senso profondo del cambiamento di un'epoca. Lo coglie nei singoli e lo coglie nelle masse. E Franco Loi aggiunge proprio nel libro che vi ho appena presentato che Tessa costruì la sua grandezza, se vogliamo usare questa espressione, in un tempo di roboanti proclami ed esaltazioni d'annunziane della vanagloria individuale, in una incessante attenzione alle sorti degli altri, alla condizione dei poveri e dei derelitti, nel saper trasformare le piccole vite di un mondo miserabile in simboli della dignità umana e per riscontro della follia di un'epoca. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo ad alcuni titoli di letteratura e storia al femminile. Una delle figure più affascinanti dell'epopea napoleonica è stata la sorella dell'imperatore, Paolina, che poi, dopo un breve matrimonio, che era avvenuto a Milano tra l'altro con un generale napoleonico, sposò il principe romano Camillo Borghese, quindi è nota come Paolina Borghese. La ritroviamo nel libro Paolina Bonaparte, la Venere dell'Impero di Flora Fraser, che è una scrittrice storica inglese, pubblicato da Mondadori, 302 pagine, 20 euro, tradotto da Luisa Agnese e Dalla Fontana. Paolina, dicevo, era una dei sette fratelli e sorelle di Napoleone, la terz'ultima, visse solo 45 anni, ma ebbe una vita molto intensa e fece parlare molto di sé. La sua fama, naturalmente, è legata alla bellissima scultura di Antonio Canova, che la ritrae distesa e seminuda ed è custodita a Villa Borghese. Paolina, chiarisce subito la Fraser, fu bellissima e leggendaria seduttrice, e tale fama non l'abbandonò mai, e anzi venne accusata di ogni nequizia, a partire naturalmente da un'intensa attività amatoria con accompagnatori più o meno occasionali. Lei stessa ci scherzava, infatti quando Canova doveva decidere come ritrarre Paolina, propose alla principessa di ritrarla sotto forma di Diana, vergine cacciatrice, ma secondo la tradizione Paolina scoppiò a ridere e disse: nessuno crederebbe nella mia castità, e quindi fu scelta la posa come Venere. Ma questo non è un libro sulla vita sessuale di Paolina, che fu una protagonista dell'epopea napoleonica, molto legata al fratello, tanto da seguirlo all'Elba. E così la sua vita diventa un autentico reportage dall'interno su anni di profonda trasformazione e in particolare su quella Roma che avrebbe poi tanto scandalizzato come principessa Colonna. Sentiamo queste righe che mostrano le rimostranze che spesso anche il fratello doveva farle giungere, in questo caso poco dopo il matrimonio col principe Borghese, che subito tradì con un nobile tedesco. Quando Camillo scoprì la verità, cogliendo Paolina in flagrante per via di una lettera che avrebbe dato la vita per non aver visto, fu colto da un furibondo accesso di collera e gelosia. Chiese che tutti i membri del suo seguito, complici della tresca, fossero rimandati a Parigi. Paolina rifiutò, e quando Borghese chiese l'intervento dello zio Fesch, risultò evidente che il cardinale non aveva alcuna influenza sulla cocciuta nipote. Aldo Brandini, quando lo consultarono, consigliò la tolleranza. «Le donne, amico mio, soprattutto prima di arrivare a una certa età, vogliono quello che vogliono e non c'è modo di frenarle né con la forza né con l'autorità». Napoleone, invece, non era della stessa opinione. In aprile, quando il cardinale Fesch lo informò dei dissapori dei Borghese, scrisse a Paolina con la chiara intenzione di spaventarla e indurla all'obbedienza. «Signora e cara sorella, Ho saputo con dispiacere che non avete avuto il buon senso di adeguarvi agli usi e costumi della città di Roma, che avete mostrato disprezzo per la sua popolazione e continuate a tenere lo sguardo fisso su Parigi. Se alla vostra età vi lascerete andare a seguire cattivi consigli, non potete contare su di me. Quanto a Parigi, potete stare certa che non vi troverete nessun sostegno e qui non vi riceverò mai se non accompagnata da vostro marito. Se i vostri rapporti dovessero guastarsi, la colpa sarebbe vostra e la Francia vi sarebbe preclusa. Perdereste la vostra felicità e la mia amicizia. Un'altra storica inglese, appassionata questa in particolare dell'Italia, dove visse e sposò un gentiluomo italiano e morì, è Iris Origo, che era nata signora Capting, autrice di una bellissima biografia, Il mercante di Prato. Ora torna con Guerra in Val d'Orcia, diario 1943-1944, è pubblicato da Longanesi, 248 pagine, 18,60 euro, tradotto da Elsa Dall'Olio e Paola Oietti. Negli anni 20 la coppia Origo compra una tenuta in Val d'Orcia, allora una zona poverissima, assolutamente isolata, e trasformano questa vastissima area sviluppando l'agricoltura con impianti moderni e soprattutto collocandovi molti servizi sociali. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale la Val d'Orcia all'improvviso si trova al centro degli scontri tra tedeschi e partigiani. Sentiamo dal libro dell'Origo che cosa successe in quei mesi. Tutto ciò non costituiva un villaggio, ma era già un piccolo mondo a sé. E durante la guerra questa piccola comunità, sempre in gran parte sufficiente a se stessa, lo è divenuta quasi interamente, come le piccole comunità del Medioevo, unita da una rete di interessi, di ansie, di timori e di speranze comuni. Insieme abbiamo fatto i piani per nascondere ai tedeschi l'olio, i prosciutti, il formaggio. Abbiamo veduto cadere le prime bombe sui ponti della Val d'Orcia e ascoltato, pieni di speranza, le voci degli sbarchi alleati in Toscana, che non si realizzavano mai. Insieme siamo stati cacciati dalla foce e insieme, dopo l'arrivo degli alleati, vi siamo tornati a seppellire i morti, a raccogliere le messi, a iniziare lo sminamento e a ricostruire le case coloniche distrutte. Piccole comunità come la nostra formavano allora, come devono aver formato in tante altre guerre del passato, tanti microcosmi compatti, preoccupati anzitutto della propria sopravvivenza. Rileggendo questo diario, mi sembra che lo stesso strano susseguirsi di eventi militari e domestici, tragici e comici, debba essere esistito, a parte i bombardamenti, anche allora, nelle misere ma feroci guerriglie locali del Medioevo e nelle interminabili lotte mercenarie del 500 e 600. Anche per la gente di campagna di quei tempi, come per noi, gli avvenimenti importanti non devono essere stati quelli la cui eco giungeva da lontano, e spesso con ritardo o falsata, ma quelli di cui portavano notizie dai paesi vicini messaggeri a piedi o a cavallo, pagliai bruciati, bestiame asportato, massaie piangenti, ragazze violentate, disertori erranti per le campagne, spie e traditori e accanto a tutto ciò tanti atti individuali di solidarietà umana, di coraggio e bontà. Per la piccola gente, la guerra è sempre stata così, fino alla nuova minaccia dei tempi nostri, la guerra atomica. Queste erano alcune righe tratte dall'introduzione, che viene poi seguita dal diario vero e proprio, che è una cronaca appassionante di una comunità che cerca di resistere, che deve destreggiarsi negli scontri. E proprio questa reazione di quella comunità susciterà la grande ammirazione della scrittrice, che conclude il libro scrivendo: «E adesso, cioè al momento della ricostruzione, che le più profonde virtù del popolo italiano si riveleranno. Parlare della pazienza, della rassegnazione, dell'operosità e dell'ingegno di questa gente è ormai un luogo comune, ma come molti luoghi comuni è una realtà». Una scrittrice italiana è Melania Mazzucco, della quale esce Jacopo Tintoretto e i suoi figli, storia di una famiglia veneziana, Rizzoli, 1026 pagine, 42 euro. Il tomo è monumentale, come avete sentito, difficile da maneggiare, ma vale la pena di leggerlo. Si tratta della storia di una scoperta avviatasi in una fredda chiesa di Venezia dinanzi a un capolavoro, la presentazione di Maria al Tempio, che appunto consente alla scrittrice di accostarsi a un grandissimo pittore che ebbe degli esordi particolarmente difficili, anzi quasi catastrofici, li definisce la scrittrice, ma che invece ebbe poi grande successo. Scrive la Mazzucco: ricorrendo ogni mezzo possibile, la concorrenza sleale, la minaccia fisica, il dumping, la contraffazione, per assicurarsi un incarico aveva dipinto alla maniera di altri pittori più graditi ai suoi committenti. Insomma, con tutti questi mezzi più o meno leciti, Tintoretto acchiappa, come scrive la Mazzucco, il successo e fa di tutto per mantenerlo. Ma sentiamo Marco Carminati che ci racconta un episodio di questa forsennata ansia di Tintoretto per le commesse, per il successo. Buongiorno Marco. Ciao Salvatore. Sì, in effetti il libro di Melania Mazzucco è davvero da Guinness dei primati. 1000 pagine che raccontano la storia di Jacopo Tintoretto e della sua famiglia e della sua grande bottega. Ma proprio questa famiglia, questa bottega, realizzò il quadro più grande che noi conosciamo al mondo, quindi un quadro da Guinness dei primati. Si trova questo grande dipinto all'interno della sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale di Venezia, la sala dove il doge e i suoi consiglieri amministravano la giustizia, eleggevano le cariche pubbliche, tra l'altro lavorando di domenica. Questo è molto significativo perché appunto il tema di questa grande tela che stava alle spalle del doge, che è lunga 22 metri, alta 7 e contiene 500 persone, 500 figure per 150 metri quadri, un appartamento. Ecco, quella grande tela stava alle spalle del doge. Ma come venne realizzata? Beh, qui c'è una storia all'italiana molto divertente e molto significativa. Venne fatto un concorso nel 1577, il palazzo andò a fuoco, quindi si dovette rifare la decorazione e appunto i principali pittori su piazza aderirono con dei bozzetti e dei disegni a questo concorso indetto dalla Repubblica per realizzare di nuovo un grande paradiso alle spalle del doge. Parteciparono Federico Zuccari, Jacopo Palma, Paolo Veronese e Francesco Bassano, e proprio Veronese e Bassano in tandem ex aequo vinsero il concorso. Andarono le cose per le lunghe perché siamo già nel 1588 e purtroppo proprio Veronese, che aveva vinto il concorso insieme a Bassano, quell'anno muore e lascia il campo a chi? A Tintoretto, il quale non aveva partecipato al concorso, ma a questo punto si rende conto di avere una carta importante da giocare e dicono le fonti, favellando con i senatori, cioè cercando di convincere i magistrati a approvare il suo di bozzetto, a un certo punto vince lui il concorso. Gli altri vengono messi tutti da parte e Tintoretto porta questi bellissimi bozzetti del grande affresco, fa tutti i disegni preparatori, è troppo vecchio per mettere mano a un'opera così imponente, così pesante fisicamente, e allora si fa aiutare da Domenico Tintoretto, il suo giovane figlio, che con calma, tenacia e grande lavoro mette insieme le 500 figure che compongono il paradiso del Palazzo Ducale e nel 1592 pone la parola fine al quadro più grande del mondo. Questo della Mazzucco è un libro illustrato anche, ma particolarmente documentato, che viene condotto sulla base di molte ricerche archivistiche, trattate però poi con una forma quasi romanzesca, che ci permettono di addentrarci nella storia della vita di questo grande pittore, della sua arte, della sua famiglia e anche di una città e di una civiltà all'apogeo del suo splendore, cioè la Venezia del XVI secolo. Il confettino. Restiamo nell'antichità con Roberto Piumini, A cavallo tra i castelli, illustrato da Desiderio Guicciardini e pubblicato da Einaudi, 118 pagine, 14,50 euro. Qui siamo nel Medioevo, con tanti personaggi singolari, in tanti luoghi fantastici, dal re Bimbone al castello di Mordilancia, ciascuno dei quali è protagonista di una favola divertente e appassionante. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e vi ricordo anche che la nostra trasmissione, come tutte, può essere riascoltata sul nostro sito www.radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana.